Il ricevitore fa cre, ma nessuna voce risponde. Senti solo una presenza, non è neppure un respiro, perché non respira. Dall'altra parte del filo c'è una presenza che sta lì ad ascoltare la presenza del tuo silenzio. E allora riattacchi, esci per strada. A tornare a casa non ci pensi neppure, sai benissimo che il telefono squillerebbe. Tu lo lasceresti squillare una volta, due volte, tre volte. Poi prenderesti il ricevitore e lo porteresti all'orecchio. E dall'altra parte niente, solo la densità distinguibile di una presenza che in silenzio ascolta il silenzio della tua presenza. Arrivi di nuovo al fiume. Ora gli imbarcaderi sono deserti. I battelli hanno cessato il servizio, non c'è più nessuno. Ti siedi sulla spalletta del lungo fiume. L'acqua è limacciosa e inquieta. Forse c'è l'alta marea e il fiume sfocia con difficoltà. Sai che è tardi, ma non nel senso dell'orologio. Intorno a te l'ora è vasta, solenne, grande come lo spazio. Un'ora immobile che non è segnata sul quadrante e tuttavia leggera come un sospiro, rapida come un colpo d'occhio. Anywhere Out of the World di Antonio Tabucchi, lettura di Ermanno Nastri. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Giampiero Ciccio, direttore artistico della sesta edizione del Festival In Divenire a Roma, Spazio Diamante dal 28 aprile all'11 maggio 2025, ben trovato. Grazie, grazie, ben trovato Federico, a tutti i tuoi. Spieghiamo cos'è questo festival. Il Festival In Divenire è nato nel 2017, ideato da Alessandro Longobardi, che mi ha subito affidato la direzione artistica, ed è un festival che vuole essere una vetrina per tutte le compagnie che hanno un progetto magari chiuso in un cassetto che non riescono a mettere in scena. Quindi possono presentarlo in forma di studio e i 20 minuti migliori vinceranno il premio In Divenire, che consiste nella possibilità di realizzare lo spettacolo concreto grazie a un premio in denaro e di entrare nella stagione dello Spazio Diamante, che cura appunto Alessandro Longobardi come direttore artistico. E quest'anno c'è un premio importante nuovo, che è un premio per le migliori compagnie formate da artisti under 30. E poi ci sono anche il premio del pubblico, che è molto ambito, perché anche col premio del pubblico c'è la possibilità di mettere in scena lo spettacolo completo attraverso appunto lo studio presentato al festival, sempre allo Spazio Diamante. Quindi mi sembra che sia un festival che possa diventare sempre più ambito dalle compagnie teatrali. Nel complesso quanti sono i lavori presentati e com'è stata la scelta? Sono arrivati intorno agli 80 progetti, ne abbiamo scelti 16 e la scelta dipende da molti fattori, per esempio intanto l'originalità del tema e poi le compagnie che devono mandare video di loro lavori precedenti, quindi anche la qualità del percorso delle compagnie e ovviamente i curriculum degli attori e anche le cose precedenti che questi attori hanno fatto. Per quanto riguarda gli attori giovanissimi, è chiaro che la scelta è soprattutto sul progetto e sulla scelta della tematica, visto che non hanno ancora avuto grosse esperienze. E quest'anno devo dire che le compagnie sono tutte di altissima qualità e ogni giorno ne andranno in scena due e sono molto contento perché la qualità ogni anno aumenta sempre di più, forse perché aumenta sempre di più la credibilità del festival. Ci sono degli studi che vanno in scena alle 20 e alcuni alle 21:30, ogni giorno sarà così. 20 il primo, che dura appunto 20 minuti, 21:30 il secondo, sempre 20 minuti. Tra l'andata in scena di uno studio e l'altra andata in scena ci sono degli incontri con il pubblico e con i giurati in cui le compagnie racconteranno e approfondiranno il loro progetto e si parlerà della potenzialità del progetto. Quindi hai visto 20 minuti e sei curioso di sapere come le compagnie intendono, nel caso di Vittoria, sviluppare lo studio. E poi avremo degli ospiti,

in tante direzioni differenti. Innanzitutto anche in Italia, che rispetto al resto d'Europa è arrivata con un po' di ritardo, anche il circo sta diventando un linguaggio artistico in cui trova spazio la ricerca, la sperimentazione, la contaminazione con gli altri linguaggi, e sta un po' abbandonando l'esclusività di essere un linguaggio di intrattenimento, ma si comincia a prestare anche a raccontare e a parlare di temi più profondi e più complessi, che non siano semplicemente il fatto di far passare qualche buon quarto d'ora al pubblico, che rimane comunque una cosa importante e dignitosissima, ma che cominciava a stare un po' stretta al mondo del circo. E legato a questo, il discorso che facevo prima, il fatto che possiamo immaginarcelo come una proposta che va bene non solo per i bambini, ma in base agli eventi, agli spettacoli, alle compagnie che si esibiscono, può essere qualcosa di interessante per chiunque. Come mai questo titolo? Circo Ideale è stato l'ultimo tassello nato nella grande famiglia della Città Ideale, che era il precedente contenitore all'interno del quale nel Teampot programmava le sue attività. Quindi è venuto naturale associarci la parola circo. Il circo che ci piacerebbe poter avere tutti i giorni e che ci regaliamo in questo momento dell'anno. La rassegna Circo Ideale a Roma, Villa De Sanctis, 8 fine settimana dal 26 aprile all'11 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico dell'associazione Melting Pot, Leonardo Variale. Alla prossima! Ciao! Con l'attore Michele Riondino del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti per presentare la 10ª edizione dell'1 maggio Taranto. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti, ben trovati voi! Partiamo dal Comitato, ce ne parli? Il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti nasce ufficialmente il 2 agosto del 2012, ovvero il giorno in cui l'azienda, l'Ilva, l'ex Ilva, decise insieme ai sindacati di manifestare contro la decisione appena presa del giudice Todisco di sequestrare gli impianti perché ritenuti nocivi per la popolazione. In quell'occasione i sindacati CGIL, CISL e UIL, insieme all'azienda praticamente, scesero in strada e cercarono di convincere che l'azione della magistratura era una pessima idea e cercavano di farle cambiare idea. In quell'occasione un gruppo di operai chiese ufficialmente, i giorni precedenti, di poter parlare su quel palco. Un rifiuto netto arrivò all'indirizzo di questi operai, i quali si riunirono insieme ad alcuni cittadini disoccupati, studenti, e si misero in coda col corteo. A bordo di una Pecar, un tre ruote come lo chiamiamo noi, arrivarono in questa piazza e chiesero nuovamente di poter parlare su quel palco, ottennero un ennesimo rifiuto e allora decisero di staccare il microfono e dagli altoparlanti di alcune casse che montarono su quel tre ruote fecero il loro intervento pacifico. Dissero che era un'anomalia vedere i tre sindacati insieme a Confindustria e l'azienda manifestare contro la decisione della magistratura, che era una decisione che andava a difendere sia gli operai che i cittadini. Ebbene, questo fu l'inizio, la nascita del nostro comitato. Da lì in poi avvennero tante assemblee cittadine, nelle cui assemblee si decise di occupare un'altra piazza, un altro giorno, che era la festa dei lavoratori. All'inizio l'idea era quella di occupare Piazza San Giovanni, però ci siamo fermati a occupare il giorno della festa dei lavoratori e quindi abbiamo inventato il nostro 1 maggio Taranto. 10ª edizione, come si caratterizza? Ormai la nostra è diventata una tradizione, perché è dal 2013, quindi non sono effettivamente 10 anni, però noi festeggiamo il 10º anno perché abbiamo deciso di fermarci 2 anni, adesso lasciamo stare i motivi. Però la nostra tradizione ormai è questa, cioè nel senso, nella parte della mattina noi abbiamo delle tavole rotonde, delle assemblee pubbliche in cui si discute di argomenti che sono legati alla tutela del territorio, alle vertenze che riguardano anche altri territori. Poi nel

a volte al contrario rispetto a tanti discorsi che si fanno, qual è il limite da non oltrepassare per essere colpevoli? Sara Libera è una donna comune che subisce violenza dal compagno, lo ama nonostante tutto, anzi si sente in colpa per tutto ciò che subisce. Siamo davvero noi la causa di ciò che ci accade? E questo è un interessante quesito che prende corpo il 3 di maggio, e siamo quindi a questo prossimo sabato al teatro Torbella Monaca con Sara Libera. Segnalo anche un divertente esperimento al Teatro dei Servi da questa sera fino all'11 maggio, 49 sfumature di giallo, una escape room portata a teatro, scritto e diretto da Roberto D'Alessandro, che amante dell'escape room insomma può trovare il suo spazio. Appunto di spazio si tratta, perché al teatro lo spazio. Massimo Odierna scrive e dirige questa black comedy dal titolo La figlia di Kyoto Zhang, appunto tutta la settimana, da questa sera fino al 4 di maggio, per indagare un po' con leggerezza e un linguaggio politicamente scorretto la follia e l'alienazione dei nostri tempi. E si tratta di personaggi. Thomas vive la giornata conoscendo donne e bevendo fiumi di alcol. Una sera, durante uno dei suoi appuntamenti, viene avvicinato da Libero, suo ex compagno d'avventure ai tempi degli scout. E nel rapporto fra i due riemergerà qualcosa dal passato che andrà a toccare il presente in modo molto particolare. Quindi invito ad andarlo a vedere al Teatro Lo Spazio. E poi non ci resta appunto che parlare dell'unico appuntamento, l'unico appuntamento vasto della settimana, con più spettacoli un giorno dopo l'altro, allo Spazio Diamante. Per la precisione, si comincia questa sera, in realtà abbiamo cominciato ieri, con il gruppo Rmn, fa piacere poterlo dire, perché insomma è lo spettacolo che ha aperto In divenire e che però è stato da noi poco considerato, cioè purtroppo la scorsa settimana non ci siamo sentiti. E il 28 aprile però ieri aveva debuttato questo progetto, il progetto che aveva vinto il Festival di Venire lo scorso anno, con Costellazione Vicinelli. Siamo tra gli anni 70 e gli 80 a Bologna, con quel vento di innovazione, di sperimentazione, di lotta politica, ed in questo contesto che prende corpo il lavoro di Patrizia Vicinelli, bolognese, che tra far parte del gruppo 63 e poi insomma attraverso la poesia visiva costruisce la propria figura carismatica e sperimentale all'interno del contesto culturale bolognese e poi nazionale. Quindi lo diciamo esclusivamente per ritrovarlo poi in scena, ma lo dico, ci sarà, perché il 10 e 11 maggio, anzi sì, 10 e 11 maggio sarà all'Angelo Mai. Continuo, questa sera poi sarà l'occasione per Pira Canta Teatro con Mi fai sentire meno freddo, la regia di Giulia Massimini, che avevamo quella drammaturgia in realtà, e la sua regia è una sua regia, l'avevamo già vista e ne avevamo scritto su Teatro e Critica qualche mese fa, e siamo in un lavoro che entra a contatto con il sistema capitalistico, che ci fa barattare la nostra libertà e l'autodeterminazione con una condizione di apparente benessere. Questo è il tema di un lavoro con la stessa Massimini, Giovanna Giardina, Ilaria Ballantini, entrambe erano nel lavoro appunto di cui avevamo già parlato qualche mese fa. E quindi Mi fai sentire meno freddo per In divenire, segue poi sempre questa sera alle 21.30 Compagnia Meraki con Figli delle Stelle, la drammaturgia di Giacomo Sette, la regia di Ilario Crudetti. È un dramma in tre atti che esplora la disillusione politica, l'amicizia e il destino di un gruppo di militanti neofascisti nella provincia di Roma tra l'81 e l'85, chiaramente sullo sfondo degli anni di piombo, le connessioni oscure con la criminalità, con la massoneria, anche per andare a vedere un po' nel nostro passato alcune ombre che accompagnano il nostro presente. Quindi insomma direi che è uno spettacolo importante da andare a vedere. Ancora ci si occupa di politica con Il pedagogo dell'infame, Marco Gualco, Riccardo Cacace, quest'ultimo alla regia e alla drammaturgia. La compagnia Chierici Cicolella domani sarà in scena, un dialogo a due tra il figlio di un influente politico, anche detto l'infame, e il suo pedagogo, chiaramente per affrontare temi riguardo la reputazione politica del padre e tutta una serie di altre questioni che andremo a vedere domani sera. Poi Seguirà sempre domani alle 21.30 la compagnia Briciole con la regia di Paolo Civati per questo Scintille, una mappa sconnessa e contraddittoria come la giovinezza, un affresco di su ragazzi nel bel mezzo di una festa. E viviamo le loro storie, i loro problemi, le loro situazioni. Ecco, è un viaggio all'interno di quel modo di vivere che si ha soltanto a 20 anni. Poi ancora ritorniamo in scena poi il 2 di maggio con questo lavoro Rivoluzionari e Professionali del gruppo Esteia di Valeria Almerighi e Carolina Leporatti. Siamo anche qui, è sempre una dimensione politica interessanti, sono delle storie di donne, segnalo tra le tante donne, insomma, le vite incredibili di 21 donne che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente del 46, ecco. Insomma, questo è il tema, quindi in qualche modo delle pioniere della Repubblica Italiana. Si tratta di Teresa Mattei, Teresa Noce, Lina Merlin, ma anche Bianca Bianchi, Laura Bianchini, insomma tutte donne che sono diventate poi parte della nostra storia italiana, e quindi ne andremo a parlare il 2 maggio alle ore 20. Segue poi infine Margot Teatro con Out Out, la regia di Valentina Cognatti, sempre il 2 maggio alle 21.30, però un progetto di teatro fisico-poetico creato a partire da un dilemma a cui non è possibile sfuggire. Bisogna scegliere. Ci sono 3 ragazzi, un uomo e 2 donne, 3 valigie che prendono, lasciano, usano, pretendono e scacciano alla ricerca di un modo per dare senso al loro mondo interiore. Questo appunto per Margot Theater. Poi continuiamo con il 3 maggio questo lavoro che in realtà ho già intercettato tempo fa, che si chiama Focus 2. Autogrill, Ania Rizzi Bogdan ed Eleonora Guzmano, quest'ultima anche alla regia, la drammaturgia di Nicolò Sordo. Si entra nel mondo degli ultras, manco ci stanno ancora gli ultras, non lo so, la prima regola degli ultras è non parlare mai degli ultras, dice Valeria, nome di fantasia, leader delle Girls del Toro, all'interno di un fight club dove vincere e perdere o perdere è secondario, anche il calcio, anche lo stadio è secondario, tutto è secondario, l'importante è soffrire insieme, il contatto fisico. Questo è quello che sarà alle 20 del 3 maggio. Io segnalo invece alle 21.30 avremo Limina, che firma la produzione di questa regia e drammaturgia di Giacomo Buonafede, che si chiama Il tempo di una sigaretta e che ragiona sul teatro dell'assurdo, che nasce tra gli anni 40 e 60 come risposta alle devastazioni e ai traumi collettivi causati dalle 2 guerre mondiali, e questo lavoro sull'alienazione, sull'angoscia, sulla solitudine dell'uomo contemporaneo è quello che muove Il tempo di una sigaretta, spettacolo che sarà in scena 21.30 del 3 maggio. Io insisto perché il 4 maggio invece alle 20 andremo a vedere questo Blue Morfo, spettacolo firmato da Incastro, la regia di Francesca Florio e Domenico De Meo, in scena Matteo Berardinelli e Alice Silvestrini. Siamo in un appartamento, il telefono squilla, Martina dipinge immersa nei suoi rituali, Andrea cerca di completare un circuito elettronico, ma c'è un'ombra che incombe su di loro, la morte dell'amico Miki, a cui Martina la sera precedente aveva somministrato la ayahuasca nel tentativo di aiutarlo a guarire. E questo è il tema di questo spettacolo, in scena il 4 maggio alle ore 20. Segnalo poi, per chiudere con questa settimana, il 4 di maggio alle ore 21.30, l'ultimo di questa settimana, Sorelle di Antigone presenta Casa Lella. Siamo a Roma, alla fine degli anni 40, in una casa di piacere di Via del Pellegrino, appunto, centro città. La signora Lella, una donna cinica, tiene il bordello ed è disposta a tutto pur di guadagnare. Le prostitute, tra le migliori della capitale, sono giovani, belle ed eleganti. Le loro storie, quelle che diventeranno nelle loro storie anche a contatto con questi uomini che frequentano il bordello, saranno in scena appunto il 4 maggio alle ore 21.30 per In divenire. Tutto questo sarà allo Spazio Diamante. Segnalo in ultimo che per The Young City al Centrale Preneste, ad ingresso gratuito, andremo a vedere venerdì 2 maggio al Centrale Preneste appunto Il teatro delle donne con questo Witch Is, finalista del bando Regist